Benvenuti a tutti, nuova puntata di NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World. Proseguiamo con il nostro breve ma intenso viaggio nel mondo della Lega professionistica di pallacanestro americana con un rapido sguardo alla situazione nella Western Conference. Houston e Golden State continuano a dominare e lo fanno non sbagliando sostanzialmente un colpo. Per i ragazzi di Mike D'Antoni sono 12 le vittorie consecutive ottenute dal rientro di Chris Paul, il quale statisticamente parcheggia attorno ai 15 punti, 10 assist, 5 rimbalzi e 2 recuperi per gara al momento. Assolutamente niente male se si considera anche un James Harden da 32 punti di media con lo stesso numero per gara di assist e rimbalzi all'incirca, ma ridurre i Rockets solo a questi due giocatori sarebbe come una bestemmia in chiesa durante la messa di Natale. Pertanto onore ad un Eric Gordon che flirta seriamente con i 20 punti per gara, ad un Clint Capela che oltre ad essere il miglior rimbalzista di squadra con 11 per partita approfitta della presenza in roster di due passatori clamorosi per accompagnarsi con quasi 14 punti di media tirando con il 67% dal campo. E come non citare il contributo offensivo di un Ryan Anderson e di un Trevor Ariza da circa 12 punti per gara a testa. Insomma, Houston nel momento in cui vi stiamo parlando è in testa alla Lega per record e ad Ovest si inizia a tremare, soprattutto dovrebbero farlo i Golden State Warriors. Dovrebbero, perché a tutela di un'attitudine di gioco e di una consapevolezza nei propri mezzi spiccatissima, la squadra di Steve Kerr continua imperterrita la sua cavalcata seppur senza Stephen Curry, collezionando una striscia aperta di 7 vittorie consecutive, 3 senza uno dei leader conclamati di squadra. Proprio nelle ultime 3 gare, Kevin Durant ha viaggiato ad una media di 33 punti per allacciata di scarpa, aggiungendo circa 7 assist e 10 rimbalzi, oltre 3 stoppate per partita. Salito in cattedra lui, affiancato da un Klay Thompson da 22 punti per gara, i Warriors scoprono un potenziale protagonista tra gli altri nel roster in ogni gara. Si tratta di un organico profondo e variegato a livello di talento e soluzioni. Nessuna meraviglia quindi nel veder correre e difendere come un mastino un Jordan Bell ad oggi sorprendente, oppure nel calcolare il contributo a livello di minuti di qualità di giocatori come David West, Omri Caspi, Nick Young e di soliti Iguodala e Livingston. Insomma, serviranno veramente dei Rockets super ispirati per mettere pensieri in testa a questa armata apparentemente invincibile, anche se, continuando a guardare ad Ovest, c'è una squadra che zitta zitta si mantiene in scia con un lusinghiero terzo posto di conference con 19 vinte e 9 perse al momento, che finalmente ha potuto festeggiare un atteso rientro. Si tratta dei San Antonio Spurs e di Kawhi Leonard, che ha esordito in stagione nella sfida settimanale contro i Mavericks, mettendone 13 in 16 minuti, pur uscendo sconfitto dal campo con i suoi per la nona volta in stagione. Squadra da riequilibrare per Popovic. Finalmente, tra l'altro, con il ritorno di colui che è una pedina fondamentale da affiancarsi ad un LaMarcus Aldridge che sta giocando una stagione ad oggi strepitosa e con un quartetto di vecchietti esperti formato dai soliti Parker, Ginobili, ma anche Rudy Gay e Paul Gasol, che al momento sta ampiamente facendo il suo. Occhio a questi Spurs perché se all'esperienza di chi conosce come gestire i momenti decisivi di una stagione si aggiungono le due star in forma ed un contorno di specialisti non da poco come Perry Mills, Kyle Anderson e Danny Green, con un allenatore come Popovic questa squadra ha una chance almeno di fare uno sgambetto a chiunque in una serie da 7 partite in futuro. Staremo a vedere. A proposito di rientri attesi, a Los Angeles sponda Clippers è rientrato finalmente Milos Teodosic. Ci sono 12 punti e 7 rimbalzi per lui, con la tripla tra l'altro decisiva nel finale per la vittoria dei Clippers sui Raptors in questa settimana, partendo in quintetto nella gara del rientro. 8 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nella sua seconda uscita, seconda vittoria consecutiva per i Clippers, con un DeAndre Jordan tra l'altro da 16 punti, 20 rimbalzi e 2 stoppate e 31 punti dalla panchina per Lou Williams. Brevemente, proseguiamo guardando ad est. Qualche scivolone a livello di gioco e di risultati per Boston che comunque si mantiene in testa alla conference tampinata da Cleveland. In coda, caduta libera per i Detroit Pistons, che crollano collezionando una striscia aperta di 7 sconfitte consecutive e si trovano al momento all'ottavo posto di conference, appena di poco davanti ad una New York reduce dalla vittoria contro i Lakers al Garden con un Porzingis sensazionale da 37 punti, 11 rimbalzi e 5 stoppate. Quinta piazza per Indiana, che si permette il lusso di interrompere la striscia positiva di Cleveland in settimana, prima che Oladipo faccia registrare il suo record in carriera di punti con 47 nella vittoria seguente contro Denver. quarta piazza per i Milwaukee Bucks, che oltre ad aver beneficiato effettivamente dell'innesto di Eric Bledsoe, hanno un Giannis Antetokounmpo stellare, secondo marcatore per media nella Lega. Nelle 5 gare disputate a dicembre, tra l'altro, 32 punti di media partita per lui. Per quanto riguarda la squadra teoricamente guidata in panchina dal signor Tyronn Lue, seconda ad est, si avvicina sempre di più la data, ancora non determinata per la verità, del rientro di Isaiah Thomas. La squadra prosegue in un risveglio più che positivo, sto parlando ovviamente di Cleveland, con 17 vittorie nelle ultime 20 gare disputate, guidati da un certo giocatore, tendenzialmente ad un passo dalla tripla doppia di media stagionale, che in settimana ha fatto registrare anche una gara da 17 assist. Proprio a proposito di LeBron James, leader conclamato di questi Cavaliers, i rumors sul suo futuro a partire dalla prossima stagione continuano a farsi sempre più martellanti. Nelle ultime ore si è infatti fatta strada la prospettiva di poterlo vedere addirittura a Houston la stagione ventura, ad affiancare l'amico Chris Paul ed il devastante James Harden, che al momento è il principale antagonista del 23 dei Cavs per il titolo di MVP, quantomeno di metà stagione. Si tratterebbe di un trio potenzialmente letale, capace di far scricchiolare, almeno nei pensieri, il possibile dominio futuro dei Warriors di Steve Kerr. Aggiungere a questi Rockets colui che per molti è già da considerarsi come il miglior giocatore della storia del gioco sarebbe sicuramente interessante. È proprio sulla diatriba di LeBron migliore di sempre o meno che vorrei fermarmi un attimo, spiegando sostanzialmente quello che penso ad oggi. L'ultima volta che il signor LeBron James non ha raggiunto le finali NBA risale alla stagione 2009-2010, quando i Lakers di Kobe Bryant superarono per 4-3 nella serie finale i Boston Celtics dei Big Three, operando così la vendetta definitiva sulla sconfitta avvenuta 2 anni prima a vantaggio della squadra più vincente della storia della Lega a livello di titoli. Da quella stagione per 7 anni consecutivi, LeBron James si è giocato il campionato fino in fondo, 4 volte con i Miami Heat e 3 volte con i Cleveland Cavaliers. Di queste 7 volte, James ha vinto il titolo NBA 3 volte, conquistando contemporaneamente anche il premio di MVP delle Finals. In realtà il primo viaggio in finale per The Chosen One avvenne nella stagione 2006-2007, con quella prima versione piuttosto scarsa rispetto a quella a cui siamo abituati a più di 10 anni di distanza, dei Cavaliers che uscì malamente spazzata via da quella serie, dai San Antonio Spurs di Duncan Popovich e di un Tony Parker MVP della serie. Quindi, ricapitolando, in 14 stagioni nella Lega LeBron ha condotto la sua squadra in finale per 8 volte, di cui 7 consecutive. I detrattori ovviamente sottolineeranno il fatto che a livello di vittorie non sia neanche vicino al 50% rispetto a queste distinte esperienze in finale, ma in realtà se ci fermiamo a considerare i singoli casi possiamo capire quanto molto spesso, oltre a risultare il fattore determinante per il successo di conference della propria squadra, James quella squadra l'abbia proprio condotta quasi per mano ad un passo, nella peggiore delle ipotesi, del tetto del mondo. Proviamo infatti a ricordarci di quella prima versione di Cleveland targata al James, alla quarta stagione in carriera al momento, non esattamente coadiuvato da un talento del livello dell'ultimo Kyrie Irving o del livello del Dwayne Wade in stato di grazia che fu a Miami. Oppure proviamo per un attimo a focalizzare la prima finale di un James statisticamente irreale dopo la decision del ritorno in Ohio, dove in seguito all'infortunio che mise KO per il resto della serie proprio Kyrie Irving condusse Cleveland a 2 vittorie in una serie comunque vinta dagli Warriors, ed il suo ruolo, stavolta coadiuvato dal dominio assoluto in coppia con l'allora numero 2, nel rientro da 3-1 sotto nella serie vinta l'anno seguente in una clamorosa gara 7 alla Oracle Arena. LeBron James sta giocando quest'oggi la sua 15ª stagione nella Lega, e se già la sua crescente integrità fisica accompagnata da una consapevolezza della propria forza tecnica e mentale sarebbero sufficienti a mostrarne la continua ascesa, anche osservando le statistiche il dato di fatto risulta palese. È vero, l'apice realizzativo raggiunto superando i 30 punti di media nelle prime stagioni non è stato pareggiato più, seppur per pochi punti in percentuale, ma ad esempio la progressiva crescita negli assist di media, quest'anno si trova ad un passo dai 9 per la lanciata di scarpe, dimostra quanto questo giocatore si sia costantemente migliorato in tutte le sezioni di gioco possibili. Non ultima, infatti, la capacità di coinvolgere e migliorare il contorno, tralasciando la spiccata dote di motivatore e di leader per i compagni, che lo rendono agli occhi di tutti qualcosa di più di un semplice allenatore aggiunto in campo. Oltretutto, tangibile il miglioramento progressivo da dietro l'arco, opzionato con successo quest'anno come non mai, mantenendosi attorno al 42% di successo per tentativo. Personalmente credo che ci stiamo trovando di fronte a colui che solo dopo un eventuale ritiro saremo tutti concordi nel definire il migliore di sempre, per buona pace dei suoi detrattori e di coloro che continuano a non accettare discussioni e paragoni con il signor Michael Jordan. Tra questi, dico la verità, fino a poco tempo fa c'ero anch'io. Diciamo che la percezione mi è cambiata proprio dopo averlo visto gridare "Cleveland, this is for you" in una Oracle Arena attonita, convinta fino a pochi secondi prima di star per presenziare al secondo titolo consecutivo dei suoi Golden State Warriors. Mi sono avvicinato alla pallacanestro NBA, seppur ancora bambino, proprio in occasione delle prime finali vinte dai Bulls di Michael Jordan contro i Lakers di Magic Johnson. Quindi mi sono perso tutti gli anni precedenti in cui Mike continuava a sbattere contro il muro dei Bad Boys di Detroit, crescendo mentalmente anno dopo anno e comprendendo quanto il coinvolgimento e la crescita di un contorno costruito ad arte attorno al suo genio potesse diventare decisivo per salire sul tetto del mondo. Ricordo però perfettamente il lavoro fatto dallo stesso 23 a seguito del suo secondo ritorno, a seguito della delusione per l'uscita contro gli Orlando Magic e di come riuscì a reinventarsi in un giocatore più tecnico e meno atletico, capace di dominare con la mente qualsiasi avversario per raggiungere il clamoroso repeat dei threepeat. Voglio dire, Michael Jordan per me è indiscutibile e lo è stato quasi fin da quando ho iniziato a seguire la NBA, anche e soprattutto per i successi praticamente consecutivi ottenuti, cioè 6 titoli nelle ultime 6 stagioni complete giocate da Bull prima del suo secondo ritiro. Se ripenso a momenti come il Nausea Game nello Utah o alle ultime 3 azioni della gara 6 del 98, mi sembra quasi impossibile che dopo di lui possa essere esistito qualcuno capace di giocare a pallacanestro in quel modo, dominando la Lega, riuscendo a dimostrare di poterla dominare a tratti anche dopo aver compiuto 40 anni durante il suo secondo ritorno. Eppure la progressione di LeBron James in 15 incredibili anni è lì davanti ai miei occhi e ai nostri occhi, e soprattutto ci sono queste 7 finali consecutive raggiunte con 2 squadre diverse. La struttura basica dei Bulls di Michael Jordan a questo proposito è andata crescendo con la consapevolezza acquisita del suo leader, e sto parlando di Tex Winter, Phil Jackson, Scottie Pippen e l'ala grande che dal primo al secondo triennio si è mutata in Horace Grant a Dennis Rodman, quasi al mutare del gioco in quegli anni, perfezionandosi. LeBron non solo però è stato capace di poter dominare con la sua squadra la Lega per un periodo molto lungo, più lungo di quello di Jordan, ma pure cambiando 2 squadre, diventando da subito la variabile decisiva per il successo totale, a prescindere dagli allenatori, a prescindere dalle tattiche condivise, semplicemente essendo lui la componente capace di variare gioco e strutture con la sua semplice volontà, quasi sia in grado di far quello che vuole quando vuole, influendo sul rendimento di chi lo circonda, quasi fosse colui che tiene il joystick di un videogame dove gestisce i 5 in campo, i cambi, le tattiche, gli isolamenti, le emergenze nei momenti decisivi. Concludendo, come già detto in apertura di questa piccolissima analisi sul migliore di sempre, in molti sono pronti a scommettere che James l'anno prossimo giocherà da qualche altra parte, probabilmente ad ovest. Potrebbe farlo con 8 finali consecutive raggiunte nel frattempo, seppur ad oggi appare difficile che possa trovarsi con un anello al dito in più in realtà. Se davvero riuscisse, approdando nell'altra conference, a scalzare il dominio di Golden State, un dominio che appare destinato a durare, a quel punto il ruolo nella storia di LeBron come numero 1 incontrastato sarebbe a mio avviso indiscutibile. Ovviamente, per quanto può valere determinarlo, perché comunque ci tengo a precisarlo, ogni epoca è ovviamente differente dall'altra e dal suo interno ha avuto giocatori ognuno a suo modo inarrivabile, come ad esempio, per citarne alcuni, Bill Russell, Will Chamberlain, Magic Johnson, Larry Bird e Shaquille O'Neal, oltre ovviamente al Jordan già analizzato precedentemente. Chiudendo comunque su James, sono fermamente convinto che, per quanto possa durare il suo proseguo nel raggiungimento consecutivo della tanto agognata finale, una statistica simile sarà percepibile nella sua grandezza solo a distanza di anni, magari dopo proprio che LeBron avrà appeso le scarpette al chiodo. Tra l'altro, considerando la clamorosa integrità fisica e la momentanea assenza di gravi infortuni nel suo storico, chissà per quanti anni ancora questo assoluto fenomeno sarà capace di dominare la Lega ed il gioco. Benissimo.